Ultima metà. Brr, brr. Non era scritto na na na. Brr, brr. Non era la mia strada. Lo spettatore nel cantiere di Dio. Uai ai ai ai. Brr, brr. Mi divertivo. Brr, brr. La banda che suonava. Ehi. Immaginavo di esserci anch'io. Ed era il passatempo più bello. Fumo adesso sotto la mia città. Fiore che cresce nel cemento. Deve essere per forza questa musica. Se dopo 100 fuochi jam session, la maggior parte ha perso la carica. Non voglio smetterla, sai, lungimiranza. No, no, no, non si arrenderà. No, no, non si arrenderà. Brr, brr.